Dialogo 43esimo. Raccontò Uqba bin Amir: incontrai un giorno l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e gli chiesi: cos'è la salvazione? Mi rispose: controlla la tua lingua, abbi cura della tua casa e piangi sui tuoi peccati.